Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Assumi cortisonici, occhio alle lancette dell'orologio biologico. La raccomandazione arriva da una ricerca dell'Università La Sapienza di Roma in collaborazione con l'Università Federico II di Napoli. A Obiettivo Salute il professor Andrea Lenzi, ordinario di endocrinologia La Sapienza di Roma, ci indica modi e tempi corretti per assumere i cortisonici. Sapevamo già che il cortisolo, cioè l'ormone che noi produciamo all'interno del nostro organismo, che è il cortisone che prendiamo come farmaco, aveva un picco mattutino. Però non sapevamo esattamente se la somministrazione andava fatta anche al mattino quando era farmaco e non sapevamo del tutto i motivi. Ora sappiamo che bisogna prenderlo la mattina, che in questa maniera non solo il sistema ormonale, il sistema endocrinologico sta meglio perché c'è una regolarità nella produzione e nell'estinzione nella parte serale, riducendo quindi la quantità di questo ormone in circolo, ma sappiamo anche che il sistema immunologico, cioè quello che ci difende dalle infezioni, ha in questa maniera una giusta stimolazione da parte di questo ormone. Se cambiamo modalità di somministrazione, rischiamo di avere un aspetto di jet lag del sistema immunitario che comincerà a funzionare male e non ci difenderà più da infezioni, a partire da quelle virali, che sono quelle ovviamente più comuni e più aggressive. Quindi raccomandiamo assolutamente la somministrazione del cortisone farmacologico con tutti i suoi specificità la mattina. Volete saperne di più? Ascoltate l'approfondimento del professor Lenzi sulle pagine del programma. Obesità e diabete di tipo 2 sono una minaccia anche per le funzioni cognitive del nostro cervello. A questo risultato sono giunti i ricercatori dell'Istituto di Fisiologia Umana dell'Università Cattolica. A Obiettivo Salute il dottor Salvatore Fusco, uno degli autori dello studio. Il nostro studio ha dimostrato come una dieta ricca di grassi saturi va a interferire con il funzionamento delle cellule del nostro cervello, perché va a spegnere un interruttore chiave per la comunicazione, quindi per la capacità di apprendimento e di memoria. Il nostro studio dunque svela un meccanismo molecolare nuovo responsabile del declino cognitivo che si associa a malattie come il diabete di tipo 2 e getta le basi per lo studio di nuovi approcci terapeutici per contrastare i danni delle malattie metaboliche sul nostro cervello. Per saperne di più ascoltate l'approfondimento sulle pagine del programma. Per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 continua con Melo, che io vi aspetto come sempre in diretta video. Oggi parliamo delle nostre ginocchia insieme al professor Roberto D'Anchise del Galeazzi di Milano. Vi auguro una buona giornata, vi aspetto come sempre domani a mezzogiorno quando scocca l'ora della salute. Un saluto da Nicoletta.